allarmare. Se ti sto a un millimetro, spegni i rumori e fumami a pieni polmoni, come fossi l'ultima di una vita di rinunce e sobrietà. Se ci sfioriamo, sento il rombo del vulcano, la paura si alza e va in toilette per lasciarti sola un po' con me, che chissà che sto pensando. Che cretino mi ero messo in testa di invitarti alla mia festa, io che non festeggio quasi mai, io che non festeggio quasi mai. Mi ero illuso di dormirti addosso in una notte senza fondo, io che non mi illudo quasi più, io che non mi illudo quasi. Siediti al piano, scegli tu cosa cantiamo. La tua voce si rannuvola, poi diluvia atroci verità. Forse so che stai pensando. Di invitarti alla mia festa, io che non festeggio quasi mai, io che non festeggio quasi mai. Mi ero illuso di dormirti addosso in una notte senza fondo, io che non mi illudo quasi più, io che non mi illudo quasi più. Ma cosa mi ero messo in testa? Cosa mi ero messo in testa? In una notte senza tempo, in una notte senza fondo.